בלו טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. לייב. 5 minuti dopo le 21, buonasera da Agostino Spulaore, che eccezionalmente questa sera vuol far compagnia al suo fedele compagno, il mitico Maurizio Calzavara, alias Nonnetto. Ciao carissimo, come stai? Bene. Buonasera Agostino. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora, perché sono qui? Perché devo sostituire Flavio, che purtroppo non può venire questa sera, ma insomma spero di farlo nella maniera miglior possibile, anche perché questa sera comunque ci sarà un live, comunque ci sarà un cantante in acustico, comunque ci sarà la bella musica, soprattutto quella italiana, fatta come si deve. Avremo un Ravennate puro sangue, si chiama Max Arduini, lo salutiamo subito. Ciao Max. Ciao ragazzi. Benvenuto a Blu Radio Veneto. Però prima di presentarlo e dare il via a questa chiacchierata con lui e sentire le sue musiche, le sue canzoni, vi ricordo i nostri dati. Allora, il numero telefonico in studio 049 875 6423, e poi ancora gli sms se volete mandarceli questa sera. Vi ricordo il 346 2320 033, le nostre frequenze 88 700 e 94 600 MHz in modulazione di frequenza. Poi ancora il nostro sito, dove potete ascoltarci in diretta, in streaming 24 ore su 24, tutte le sere, tutte le volte che volete, insomma in qualsiasi momento della giornata potete accedere alla nostra pagina di Facebook. Nella home page sulla sinistra c'è scritto ascolta la radio, lì potete assolutamente ascoltare questa emittente. Poi trovate anche nel nostro sito tutte le informazioni inerenti alla nostra regione, ma non solo, anche poi le recensioni sui vari artisti e quant'altro. Poi le nostre pagine su Facebook, una semplicemente Blu Radio Veneto, l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita dal nostro direttore artistico, cioè Alberto Pesco, che salutiamo, che sarà presente questa sera dopo questa trasmissione, che è anche quello che ha curato questa intervista con Max Arduini, che adesso andiamo a sentire. Allora Max, benvenuto qui a Blu Radio Veneto. Siamo felici di averti qui in studio, dal vivo. La felicità è tutta la mia, bello. Padova è un gioiellino. Ti piace Padova, sì. È un gioiellino. È un gioiellino. Senti Max, ma che ci facevi in quel lontano 1987 nel club riminese? Nel club riminese, eravamo ragazzi così, che ci si buttava nel palco a rompere le scatole ai vari... Gogo, Le Fontaine, c'erano questi ragazzi che suonavano molto bene. Noi, ci fai cantare, dai, suono la chitarra, che poi suonavamo la chitarra da amatori, insomma, no? Oggi invece la gente fa il karaoke, c'è un'Italia. Ma lo faceva adesso, lo faceva il karaoke, adesso fa quello tecnologico. Guarda, karaoke tecnologico. Ho sempre pensato, se voi prendete un ragazzo di oggi che magari fa karaoke, lo prendi, lo porti indietro nel tempo, no? E poi lo porti su un palco dove c'erano i musicisti. Uno dice, vuoi cantare? Cosa canti? Mina, perché no? La improvvisavano lì per lì. E lui gli dice, il testo? Guarda là sotto che scorre il testo, guarda là sotto. Dove? Non c'è il testo. O la sai a memoria. O no. O non si canta. E questa è un'altra cosa molto bella, insomma. Il nostro lavoro bisogna farlo anche un po' a memoria a volte, però. Quindi cioè, avete sentito, la serata sarà assolutamente molto goliardica. Frizzante, perché è un personaggio simpaticissimo, Max. Max, quinto album, ne hai fatti tanti. Quinto album non è mica una cosa da poco. È un quinto album che è un The Best Of. Quindi hai raccolto dal 2000 al 2011 le tue cose più importanti, più significative, quelle che si sentono poco, vero Max? Allora, sono stato proprio coraggioso. Sei stato coraggioso. Dobbiamo sottolineare che Max percorre davanti e dietro l'Italia per suonare, gira dappertutto. Sì, è vero, è vero. A volte anche i gestori dei locali scappano. Quando ti vedono. No. Sta arrivando Max, vuole suonare a tutti i costi. No, vuole, ecco una bella cosa, vuole suonare. Voglio suonare. Quello sì. È importante, vuole suonare. È chiaro che laddove il governo, il comune, i territori non ci danno spazi per esprimerci, noi dobbiamo assolutamente rompere le scatole a chi ha gli strumenti per farci lavorare. Certamente. E quindi no, a volte magari sei un po' pesante, ma alla fine il risultato arriva, insomma. Il praticantato è vivo in praticantato. È perché è un continuo praticantato. Esattamente, quindi una continua scommessa tutti i giorni. Fantastico. Ma perché io questo disco lo dedico comunque ai laureati, mi piacciono molto gli laureati, le persone che dedicano la vita allo studio e poi magari vanno a fare i magazzinieri, mi dispiace, perché questo è importante. Il praticantato serve, però a volte è forzato. perché non c'è questa meritocrazia in Italia, dai, vogliamo dirla tutta, no? È vero. E quindi così mi sono voluto dedicare questo album come praticantatista, come dire, e prendendo quelle canzoni che magari le persone che mi seguono non hanno seguito attentamente, così l'ho riproposto in una veste nuova. Le hai un po' riarrangiate, riprese, ma un po' ripreso. Anche riprese quelle antiche, quelle vecchie che forse erano messe nel cassetto, non per tuo motivo, ma perché per diversi fattori non riuscivo ad eseguirle, a farle. Ma perché sai cos'è? Questo lavoro, lavoro è sei sul campo, è quello che sei sul campo. È strano, campo. Perché se a me piacciono canzoni che a voi non piacciono... Esattamente. Io non vendo dischi, non riesco neanche a farmi piacere. Quindi io devo sondare col pubblico. Se al pubblico piacciono quelle due canzoni, gliele devo fare. È un po' come Claudio Baglioni, che canta ancora Piccolo Grand'Amore. È chiaro che si sarà rotto le scatole di cantarla. Certo. Perché lui reputerà che ne ha scritti anche dei migliori. Però il pubblico lo conosce per quella. Lo vuole. Sì, e noi siamo qui per il pubblico, dai ragazzi. Certo. Siamo qui per il pubblico. Infatti comandano loro nei concerti. Esatto. Vedi anche i Pooh, per esempio, con Piccola purtroppo Katie, sì, con Piccola Katie. Purtroppo esatto. Sì. Che passa, l'ha cresciuta sta Katie. È molto cresciuta. Ho tanta voglia di lei, insomma, sono le... o pensiero poi. Ho tanta voglia di lei, era Piccola Katie dopo. Sì, ma qualche volta si riesce a fare qualche pezzo nuovo, caro Max? Sì, a volte... Riesce qualche volta? Sì, il primo di maggio, per dire, ho suonato a Radio 1 Demo, alla Rai. Ah, Michel Pergolani e Maro Pergolani e Renato Marengo. Due grandi personaggi. Io ricordo Michel Pergolani, io ho una certa età, caro Max, mi ricordo quando scriveva su Ciao 2001 e faceva le cronache da Londra. Era straordinario. Comunque, ascoltatori, non fidatevi, perché questo qui c'ha 20 anni, gli ultimi. Se non siete mai venuti in radio, io lo vedo qui, c'ha 20 anni. Ma c'ha la foto che lo tradisce. Grazie. In ogni caso, Michel Pergolani e Renato Marengo, due personaggi bravi, interessanti. Ma più che interessanti, sono sportivamente in gamba, perché loro danno opportunità veramente a tutti. Chiaro, devono sezionare, devono valutare, però trasmettono molto materiale, gli arrivano centinaia, migliaia di CD, li vagliano, insomma, fanno quello che dovrebbe fare la SIAE, dovrebbero fare le istituzioni con chi lavora seriamente, invece purtroppo questo non succede. Beh, qualche volta però questa vita dà delle belle sorprese, dai, tipo sono qui perché mi avete contattato e io sono venuto di corsa. E te ne siamo grati, ovviamente. Grazie a voi. Senti, allora, questa prima canzone che rompiamo subito il ghiaccio. Tengo a precisare una cosa: questo disco, questa raccolta successi di Max, non si è risparmiato nelle tracce, ce ne sono ben 19. Come allora, si usava una volta, un greatest hits deve essere fatto da tante tracce. 19, the best, appunto. 19 canzoni, quindi c'è proprio. No, il mio discografico mi ha tirato anche le orecchie, perché erano troppe. No, perché mi continuava a dire: stai attento, perché la durata di un CD è quella. Non è che una volta era un doppio album. E dopo dovevamo fare un doppio album. Certo, era un doppio e album. Chi l'avrei messo 4-5 in più? non era male come idea. Ma sì, dai. Pensa, con 15 euro avevi 30 tracce. Questo quello è il nesso di tutto. Allora, questa prima canzone la vogliamo ascoltare, poi magari molto ne parliamo. Volentieri, molto volentieri. Allora, la canzone si intitola Sul Col du Galibier, che è dedicata a Pantani. Esatto. Mercificante sulla rosa faccia di bronzo, ho una cura per questi ometti, scrivacchini, sciacalli di turno, sui pedali, sull'arte di Marco, lo scatto preciso che sporti su mano le mani, la ola nel giro d'Italia, la Francia in salita e doppia vittoria, non farmelo dire che questa è la storia, ti vedo a fatica a salire sulla soglia del cielo più su, sul Col du Galibier, riflettori sempre accesi che riflettono come i miei coglioni, quanta carta stampata a casaccio, con la forza strappato al ciclismo, poi Campiglio l'accusa dopato, ma dopo le accuse sedotto e lasciato, la recita accesa di quel rotto calco che Candido forse non è così tanto, ma fammelo dire, sei stato bersaglio di tutto il sistema ciclismo corrotto, e allora che fai? Uno scatto solitario quella rimini d'inverno, sono il muro imbrattato, come un nervo accavallato, e non non c'è scatto di gregario che ti aiuti in questo affondo, e non c'è mano di massaggio che massaggi così in fondo. Lacrime acerbe sconnesse, coccodrilli professori della gogna, come se qui nessuno lo sapesse che qualcuno ha deciso quella sorte. In un punto preciso all'apice il giro, il tour, la bandana pirata, salite, giornali, scommesse, il mostro dopato, la droga, la gente riversa per strada, l'amore, l'ingiuria sul grande campione che fa per rumore nel punto più alto che c'è. Sul Col du Galibier, lo scatto solitario, il tuo nido dal ripido abbaglio, una luce si staglia sul volto, la discesa al tuo stile in affondo, sulla ruota di dietro col culo disteso, poi nonno sotero, il mare in burrasca, non ferma un pirata, raggiunta la vetta, nemmeno lo scontro frontale, la curva, ma dopo diverse salite e discese diventa complesso rialzarsi dal fondo così. Ma tu sei ancora lì sul Col du Galibier. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Eri, sei un tifoso di Marco? Ma sì, sì, sì. Marco Pantani non era difficile volergli bene, perché era una brava persona, di buona famiglia. Ma Pantani è morto solo fisicamente? No, Pantani è morto l'anno che l'hanno fermato a Campiglio. Esattamente, basta. Quell'anno lì l'hanno ammazzato lì. Chiaro che è facile da fuori dire doveva reagire. Lui ha reagito perché lui ha avuto un momento, poi è rientrato, ma sì, lo hanno squalificato una seconda volta. È vero, sì. Quindi io penso che lui abbia avuto la sensazione forte che non sarebbe più rientrato nel ciclismo. Siccome la bicicletta per lui era la cosa più importante, è andato un po' giù di morale. Poi secondo me ci sono delle cose poco chiare, però infatti la mia canzone parla di complotto, quindi insomma. Lì la verità sta sempre sul chi va là, no? Nel senso che non si sa mai fin dove e dove non si sa, insomma. Non azzardo, perché magari posso dire cose che non, no, però la mia canzone parla molto chiaro. E c'è un saluto che ti fa Gino, l'ascoltautore, dice un abbraccio solito a voi tutti di Blue Radio Veneto, concordo su quanto dice Max a proposito di Demo Rai, che conosco bene, invece a me non sapevo di lui, a dimostrazione che non ci si arriva mai fino in fondo. Ora mi devo rifare e a giudicare di questo omaggio al grande Pantani, è un modo di cantare scanzonato ma deciso, senza fronzoli si vanno ciò. Bello, bello. Ciao Gino. Ciao Gino, grazie. È un nostro fedele ascoltatore, ci ascolta sempre. Gino l'ascolta autore. Grande. È una persona molto valida, validissima. Gino l'ascolta autore. Questa musicalmente, perché l'hai costruito così questo omaggio a Pantani? Beh, io quando è morto ci sono rimasto molto male. Ma tanti, ma non solo tanti, suoi tanti, tanti. Però, non lo so, io ci sono rimasto molto male. Io ho passato una giornata pensando che se quello è il risultato che provoca essere bravi a fare qualcosa nella vita, non c'è speranza. Allora bisogna scappare, bisogna andare da un'altra parte, capito? E in Italia queste cose succedono sovente, negli anni sono successe tante, tante volte. Enzo Tortora, Mia Martini, Luigi Tenco, e potrei dirne tanti altri. Quindi sono rimasto molto male. E poi perché l'ho conosciuto, abbiamo comprato la macchina nello stesso autosalone a Cesenatico. Ah, vedi? Quell'anno, quella macchina che poi vendendola poi ho fatto un CD. Ecco, questa è una cosa che dovete saperlo, questo. Ha veduto la macchina per comprare, per fare un CD. Il primo album, sì, fare, sì, sì. Ma quella del 2002? Sì, sì, sì. Non ce l'hai più, vero? So che è fuori. Pensavo me lo regalassi. No, non so. CD non l'abbiamo più stampato, che CD. è una rarità, Ho visto che hai scritto che è una rarità, che è introvabile. Sì, è introvabile. Però forse stiamo ragionando con la mia etichetta, la Radici Music Record, che vorremmo metterle su iTunes, così, per sfida, vedere se qualche mio ammiratore magari vuol sentire le mie prime cose. Ma è bello quello che hai fatto. Hai venduto la macchina per incidere un disco. Bellissimo. Sì, una, perché partito. La musica è più forte della macchina. E poi sono partito. E poi sei sono partito con la Costa Crociera a lavorare. Ecco, navi. Un'altra cosa, sei andato con la Costa Crociera e ma quindi che, hai fatto pianista. Ma che due scatole tutte sì. le volte. Ah, guarda, guarda che c'è stato un altro che è partito con la Costa. Un po' prima ma, di te. No, non lo fate imbarcare, questo diventa come quell'altro. No, aspetta. Io voglio solamente suonare. E poi lì ho fatto i villaggi, ho girato un po' il mondo, ho messo da parte dei soldini e poi mi sono prodotto il secondo album e poi il terzo e poi ho trovato la Radici Music e in tandem stiamo ragionando. Che ha dato una mano. Sì, mi ha dato una forte mano perché grazie a loro insomma ho fatto delle cose interessanti, diverse dalle prime, quindi anche Cauto Acuto, il disco precedente, un unplugged che insomma mi dà molta soddisfazione dirlo. E questo che è una raccolta, ma il migliore deve ancora venire. Ma una raccolta atipica, è una raccolta atipica. Deve essere sempre così, eh. Sempre. Deve essere sempre questo il tuo pensiero. Secondo me è una raccolta atipica. Perché atipica? Perché non è una raccolta, sì, prendi dei pezzi che avevi già inciso, ma li hai incisi in maniera diversa. Sì, chiaro, quello, chiaro. Per quello è una raccolta atipica. È di solito le raccolte si fanno con i pezzi già noti, di solito, esatto. Per raggiungere le classifiche alte. Si fa così, però succede anche il contrario. È vero, infatti Pergolani e Marengo simpaticamente mi prendono in giro e dice: te sei l'unico in Italia che non è famoso ma ha già fatto un The Best. Però adesso così, giusto per spillare qua, allora la Settima Casa ha vinto il premio May nel 2011. Hai visto ha vinto un sacco di premi. E ha vinto dei premi. Cioè. Poi andando che proprio in Via D'Amelio ho fatto secondo nel The Best di Radio Demo, la più votata per seconda però. E andando avanti, c'ho Rebus che è Muscoli di Cartone, sì. Che io la scrissi per WILDM, l'Unione Nazionale Lotta alla Distrofia Muscolare. E mi ha dato delle grandi soddisfazioni quella canzone, quindi quegli anni la conoscevano perché andava nel radio, poi chiaro che io non mi sono allontanato, in Africa sono tornato, ho fatto un giro in Africa poi sono tornato, però sono tutte canzoni che comunque chi mi ha seguito dall'inizio se le ricordano. Conosce. E perché le hai rifatte musicalmente? Perché la figlia del mio miglior amico le sa tutte a memoria, ha tutti i dischi miei. E dice: ma babbino, gli fa al padre, perché non ci sono queste canzoni nei dischi nuovi di Max? Ma l'hai già incise prima, ma io mi piace quella, allora gliel'ho rimessa. Ah, così. E come si chiama questa ragazza? Si chiama Giulia, una ragazza che ha 6 anni. Bambina proprio. E canta a memoria le mie canzoni, è fantastico. Ciao Giulia, un bacione. Senti, cosa ci canti adesso? Noi dobbiamo sentirti qua dal vivo. Io farei La Coltivazione del Bullone, anche perché è una canzone che parla proprio di quelle cose che non vanno giù nello sterno proprio, no? I bulloni. Ok. Questo è un appunto che ho partorito con pipa e tabacco che puzza di chiuso. Il fiato ricorda cumino e benzina, i calli alle dita, un'altra Gibson. Se guardo negli occhi la gente la vedo tremar. Questo è un discorso che se non lo ascolti ti segue anche in piazza, poi danza con l'acqua, nasconde i miei passi, spassosi a zigzag, la gatta incontra la scimmia, si scontra la tigna, bubuloni bloccati allo sterno, non vanno su e giù. Dietro le storie dei bazzi ritrovo, contento i consensi di quelle parole che a volte si fanno problemi tra gli esseri scemi. E proprio quando svito i sensi e voglio provare a capirmi, mi accorgo che serve un bullone da spingere forte con alito e denti. E queste province non tutti lo sanno, l'invidia è costante e l'amore cedrata. Per molti è Cazzù, per altri è una scala. Teste in vacca baccollano giù dalla grondaia. Campi di viti e bulloni di bemolle di diesis. Dietro discorsi di gruppo non entri, se non hai il consenso del vecchio cornuto barbuto che bleffa sovente per non stare solo. Il merito è cosa da poco, non hanno orecchie in funzione ma poche idee del partito, e Dio mostro il dito e il collo ti svito. Non cresci nei campi, lo odio il sorriso, non vendo endorfine ma brocche di vino. A volte mi impicco per fare qualcosa, ma quando mi bendo non trovo la sedia. Non resta che fare la fuga in fondo a un altro parolo. Nel vaso bonsai coltivo bulloni, nel vetro conservo i tanti rifiuti, ne servono tanti per chiudere bocche e farsi lanciare con forza da fionde. Qua qualcosa non torna tra i conti dei meriti in patria. Dietro la carriera di santo ci trovi chi registra scogli la notte con la moglie assessore, e in casa un pianista istruttore in canoe. E resto convinto di quanto è successo, che senza un appoggio il successo non viene per caso. È un po' come il voto che compra il partito. Ok, benissimo. Lei, c'è un testo che taglia, che taglia considerevolmente. Tagliuccia. Non giri, ma arrivi subito all'obiettivo. Purtroppo questi tipi di testi non vengono ascoltati. Perché secondo te? Ho capito bene, perché il pezzo fatto con la band è anche rock. Sì, è un rock blues, possiamo dire. Un pezzo che carica molto con la batteria, con l'arrangiamento, però... Ho visto che molti dice bella la coltivazione del bullone, sì, ma non hanno mica capito di cosa parla. Però questo è divertente, perché questa qui è una cosa che ci hanno insegnato i vecchi grandi cantautori del passato. Una canzone non deve piacerti al momento, la canzone la devi rivalutare fra 20 anni, allora è contemporanea. Bello, giusto, una cosa giusta questo che tu hai detto. Quindi chissà, magari un giorno dirà: ma sai che questa canzone è bella, ma la sentivo 20 anni fa, non mi diceva niente. C'è un po' di Fred Buscaglione in qualche arietta, no, musicalmente parlando, qualche lontana ispirazione, lontana. Beh, insomma, è notorio che io sono un fan di Fred Buscaglione, certo, di Rino Gaetano, sono un fan di Vinicio Capossela, mi piace molto. E anche di Andrea ti piace molto, anche De André, soprattutto la poesia Guccini, insomma. Beh, diciamo che io nasco in quel periodo. Sei di Ravenna, Guccini è vicino, non è proprio vicino. Modena, bastardo posto, come lui diceva. Anche Guccini credo che all'inizio della carriera non l'abbiano capito. Sì, ha fatto folk beat numero uno, non era molto semplice come album. Ha fatto canzoni da seguire, esatto. Guccini, però sapete il bello di Guccini? Quando prendi un disco oggi di Guccini, che magari non lo ascolti da anni, ti sembra di non averlo mai sentito. Perché lo riassapori, poi lo paragoni ai periodi che stiamo vivendo, certo, sono sempre attuali, e questo è contemporaneità. Certo, sono d'accordo con te, perché Cucini ha cominciato nel 1966, ed è stato lanciato da una persona che tu conosci, Caterina Caselli. L'ha scoperta lei. Sì, aveva musicalmente parlando un po' l'idea, diciamo, di sinistra, no? Quindi lui portava avanti quella teoria, quella voglia di dire. Ma Guccini è stato comunque lanciato da Renzo Fantini, grande. È vero, che poi ha lanciato anche Vinicio Capossela. È vero, questo è verissimo. Purtroppo non sono arrivato in tempo. Non sei arrivato in tempo. Non ti ha lanciato Fantini. Non ce l'ho fatta conoscere. Esattamente, però. E mi dispiace anche tanto, perché insomma, uno che in tutta una carriera ha prodotto due grandi come Capossela e Guccini, vuol dire che... Però ne capivo. Lo spirito gucciniano ce l'hai, perché Guccini suonava in qualsiasi locale, soprattutto all'inizio, le osterie di Fuori Porta. Sì, suonato dalla Navita, e non so se continui ancora a suonare a Bologna nelle osterie. Una volta lo faceva. No, Guccini adesso abita a Pavana, e quindi non viene più a Bologna. Non viene più a Bologna. Però una volta lo faceva spesso e volentieri. Sicuro, lo faceva anche a Gabice Monte. Esattamente. Che c'ha un carissimo amico che c'ha un locale molto bello e lì si esibisce. Quindi lo spirito, questo voglio dire, sì, anche tu interpreti lo spirito in quella maniera, cioè senza nessun confine. Ogni volta che l'ispirazione ti manda, ti metti là e suoni. Hai capito? Io credo che... Perché un cantautore deve essere così, non deve avere... Non ho mai capito bene perché nel mio destino è entrata la musica, anche perché il mio bisnonno era fisarmonicista, ma era morto presto, 47 anni mi sembra di avere. Il mio babbo è un pittore. Un pittore, quindi un artista anche tuo papà. Un artista, sì, sì, poi a mani d'oro, fa tante cose importanti. Ma musica no. Non ho parenti musicisti. Allora, deve esserci qualche cosa, capito? Però io credo che a mente fredda, oggi, tranquillamente posso dire che ho scelto di fare lo scrittore di musica e di testi perché ho tante cose da dire e non mi basta una vita. Quindi se io riesco a scrivere tante canzoni, magari anche dopo la mia morte posso lasciare ai posteri qualche cosa. Beh certo, è giusto questo. E quindi mi piace la comunicazione verbale, e quindi il testo ricercato, la letteratura, tanti libri letti. Infatti mi piace quando tu dici mi ricordi un po' il mondo di Guccini, è chiaro perché... Io sono gucciniano convinto da sempre, mamma mia, devi tener conto, gucciniano convinto, allora, dal primo all'ultimo. Ti presento la mia compagna. Sempre gucciniano, anche l'Oliano qualche volta. Anche l'Oli. Anche l'Oliano, certo, qualche certo, volta. Certo, no, ma quella musica di quegli anni era tutto speciale. Io poi sono un fan dei Banco di Mutuo Soccorso, mi piacciono un sacco. Anche il Prog ti piace. Innocenzi, a parte di Giacomo che è fortissimo, Innocenzi... personaggio di spessore, incredibile. Cioè, capisci? È questa la musica. È quella che. Allora, io ho sempre cercato di dirmi allo specchio: non strafare, ma cerca di studiare, impara. Arriva lì preparato. Ecco, impara, arriva lì preparato. Hai detto una cosa molto interessante. Eh sì, perché secondo me. Bisogna fare gavetta, bisogna continuare a sperimentare. E sono ancora l'ABC. Vedi. C'è chi invece non vuole fare gavetta e arriva subito, tac, e sappiamo come, e sappiamo come. Non lo diciamo. Non però. Lo diciamo. Con l'eco. Vabbè, vabbè. Beh, è bella, la radio è bella anche questa, dobbiamo discutere, trovare, cercare, sviluppare i discorsi. È bella per quella, secondo me. Ma certo che sì, certo che sì. Senza mai offendere nessuno. Senza ovviamente. Mai offendere nessuno, assolutamente. Perché poi sono punti di vista. Certo, certo. Infatti a me non mi piacciono gli assoluti, le persone estremiste, non mi piacciono. Né da una parte né dall'altra. Il fanatismo, queste cose. Mi piace più la fantasia. L'immagine, l'immaginario, come diceva il grande Federico Fellini, diceva il vero realista è il visionario. A proposito di fantasia, io ho letto da qualche parte che stai preparando un musical o qualcosa di quel genere dedicata a un grande brigante. Ah, no, non è un musical. È un musical. No, non è un musical. Che cos'è? È proprio un film. È un film, perfetto. Ma sì. Tu fai l'attore? A Stefano, no, assolutamente. Dedicato al famoso brigante. No, no, purtroppo no. Mi sarebbe piaciuto perché quando vedo al cinema gli attori dico, bello, cioè, no, ragazzi, cioè, le donne guardano i cantanti, gli attori, gli attori molto di più. C'è la tua compagna in ascolto? Sì, a parte la battuta, però ho visto ultimamente il film La grande bellezza di Sorrentino. Film che consiglio a tutti. E c'è un grande Tony Servillo, sì. E io lì veramente gli do la corona di grande, perché in questo momento un attore così non ce l'abbiamo, sì, in Italia. Esatto, è un grande attore. Spessore, capito? Teatro, viene dal teatro. Ah, ci ha emozionato, ci ha fatto sorridere, ci ha emozionato. E perché Stefano Pelloni? Stefano Pelloni perché servirebbe in questa epoca, oggi, perché metterebbe sotto scacco parecchi potenti. Il problema è che Pelloni quella volta è nato in un periodo dove la Romagna moriva sotto i colpi del vaiolo, della povertà, non si mangiava, e lui era un po' ribelle, anzi era parecchio ribelle. Molto, molto quindi bello. Non voleva star sotto nessuno e quindi si diede al brigantaggio. Però dai miei scritti, dalle mie letture, era un brigante galantuomo, quindi uh-huh. ha fatto anche cose ferate, ok, certo, certo, tramite sì. i suoi briganti, però ha fatto anche cose importanti, quindi per me Pelloni nel tempo è da rivalutare come figura. Quindi vuoi fare una colonna sonora di questo? No, io ho già fatto una romanza fatto di 15 brani che è nel cassetto. Pronta là. Non abbiamo trovato la sovvenzione della Regione Emilia Romagna, quindi è lì nel cassetto perché non si può produrre, non riusciamo, quindi sarebbe bello però perché... un CD di 15 brani che narra dalla nascita alla morte tutte le fasi salienti. Però se sto scrivendo questa sceneggiatura per un film, ho fatto un soggetto molto, a me piace molto, ci ho messo del mio anche, e quindi adesso sto scrivendo le varie scene con i vari dialoghi e mi diverto un sacco, quindi se non verrà prodotto comunque mi sto divertendo parecchio, che è la cosa più bella, insomma. Sì. Senti, ci fai divertire anche noi? Sì. Ecco, cosa ci proponi per farci divertire? Allora, io vi farei sentire il missile laureato. Bene. Il missile laureato. Laureato, sì, perché tanto tempo fa sentivo quando dicevano i missili intelligenti, no? Sai sì. che sono i missili che vanno colpiscono solo le fonti di calore, altri che invece fonti in movimento, eccetera. No, il mio è laureato. E se tanto mi dà tanto, se un uomo ha l'onore di diventare un laureato, deve usarla questa laurea. Non può usarla male, perché sei un dotto. E questo missile laureato. Adesso vi faccio sentire. Assoluto non ne voglio, vivo in America coi trucchi dell'inganno che soltanto l'ira nuoce alla mia laurea. Quello che non ti ho detto, sono un'incognita, un missile anche laureato. Che destinazione ha? Se non altro siete liberi di respirare polvere da sparo e arriare prima di recarsi a leggere le istruzioni per smontare anche l'ultimo valore. È un inganno primordiale. E cosa siete voi? Magari siamo noi quelli in fondo alle file, quelli che hanno visto il mondo democratico e civile. Ma quello che non vi ho detto, sono un ipocrita, un missile anche laureato che si muove in libertà. Se non altro siete liberi di respirarmi rinnovando le pareti e tutti i vecchi arredamenti. Che bellezza farvi male, studio e sono intelligente, io colpisco il mio dovere. E cosa siete voi? Questa è una facoltà dove si studia guerra, dove i miei colleghi sono bombe intelligenti, terra ed aria. Quello che non vi ho detto, certo non mi diverto, sono un missile addestrato, controllato da un cervello. E non mi sento libero, disinnescato, libero e laureato, volo libero nel cielo. Uso a freddo la testata, scienza al minimo studiata, una laurea in ramo guerra, sono stato rimandato a settembre in esplosivo, mi dispiace recidivo, non esplodo difettoso, le vertigini del volo e sulla rampa non ci monto, ero attento alle lezioni, negli appunti per i voti, proprio un missile modello. Nella pratica è diverso, non mi sento più lo stesso. Lascio il posto a chi è più pronto e non rispondo più. Quello che non vi ho detto, sono un'incognita, l'unico missile che non esercita la propria facoltà di esplodere. Anche questo è un altro testo che fa pensare molto questo missile laureato. La prima ispirazione di questa canzone mi era venuta con Bon Vicini. l'inventore della Sturmtruppe. Sì, esattamente. Perché Bombi. Lui ha, Bombi. Sì, Bombi, ha beffeggiato la guerra mondiale, quindi certo. Con questi personaggi, insomma, divertenti. Quindi il mio è un missile immaginario che decide di laurearsi, quindi di usare il proprio talento per altre cose, non esplode più, e quindi è un messaggio di pace. Divertente, diciamo. Divertente. Cari ascoltatori, voi dovete sapere che Max ha suonato con parecchia gente, molta gente, sì. Molti artisti, molti musicisti, anche poi di grossa fama. Bravi, sì, bravi. Gente che ha diviso il palco con artisti più affermati di me, quindi lo devo dire. Sì, più affermati di te, però tu hai condiviso il palco con loro. No, no, ma certo. Assolutamente. Una crescita... Continua. Esagerata proprio. Ma mi viene condividere mente... il palco con loro vuol dire trovare ispirazione, fare gruppo, suonare assieme, è una cosa diversa. Ma sai, è come se tu concepisci un brano scritto in camera tua, puoi sbagliare mille volte, non ti sente nessuno, ma quando suoni con gente preparata, anche una cosa improvvisata è intonata e viene bene. Questa è la magia della preparazione, della forza della musica. E... Io la chiamerei passione. Passione, sì, passione. Infatti con i ragazzi, io li chiamo i miei ragazzi perché suonano con me, ma è gente della mia età, quindi... Però questi amici, collaboratori, musicisti, sì, hanno questa viscerale voglia di suonare come me e lo fanno sia pagati bene che pagati poco. A volte anche gratis. Basta fare la musica. Che è terribile questa cosa. A volte anche gratis. Dice, oh, ma te fai il musicista. Dice, ma... Sì. Ma tanto te non ti... Cioè, ti diverti, no? Sì, appunto. Ah, certo, mi diverto. Infatti a me ogni anno mi arrivano le chitarre nuove, le corde, gratis. Mi arrivano, sì. No, quindi noi musicisti ci divertiamo perché siamo mantenuti dal sistema, no? Chiaro. E invece è un vero e proprio lavoro a tutto tondo, però ti dicono ti do così, va bene, no, vanno tutti via nella benzina e loro non ti prendo a suonare, vabbè, loro non vengo, però pensano che noi suoniamo per sport, invece è un lavoro. Perché in Italia tutti pensano questo, o tanti pensano questo, all'estero un po' meno, perché è all'estero sempre... il musicista è considerato una professione, in Italia no. Ma perché, Max? Ho chiesto questa domanda, ho fatta un sacco di volte. Ma perché in Italia non è considerato una professione il musicista? Il musicista è un professionista. Perché siamo stati governati male. Ah, ho capito. Ma non adesso. Da sempre? Sì. L'Italia doveva dare valore aggiunto alla cultura e all'arte. Io sono uno che gira per musica, ma oggi ero in centro a Padova, prima una città d'arte bellissima, come lo è Ravenna, come, certo. Lo so, come lo è Viterbo, come lo è Arezzo. Cioè l'Italia è tutta così, dalla Sicilia... tutta così, molti monumenti cadono vanno in decadimento, nessuno li cura, però curano bene invece i loro portafogli, mangiare bene, allora, cioè, il concetto è che questa Italia ha bisogno di tornare ai valori immediatamente, subito, dobbiamo mettere al primo posto la cultura, subito, dopodiché possiamo parlare di altre cose. Noi potremmo risolverci dalla crisi mettendo la cultura e l'arte davanti a tutto. Sono d'accordo con te, questa è una sicuramente è una giusta filosofia. Lanciamo sto messaggio magari a chi ci ascolta, ma anche ai sindaci d'Italia, perché se hanno paesi come Padova, ma ci sono città altrettanto belle, come Parma, per dire, insomma ci sono città veramente importanti in Italia. Prima di tutto c'è veramente l'arte e la cultura, che poi porterà turismo, quindi porterà guadagni, posti di lavoro, eccetera. Tu hai parlato di cinque imperatori in Romagna. Adesso li citiamo questi cinque imperatori. Ma vabbè, che c'entra? No, perché... Cari ascoltatori, sì. Ne ha parlato a microfono spento, ma adesso lo possiamo dire a microfono aperto. Beh, che fa bene, secondo me, la gente deve sapere. Ma allora, è chiaro che allora, Marco Pantani, di diritto, è un imperatore. Fa parte di quegli imperatori. Esattamente. Lì, poi, perché secondo... ci ha onorato di qualcosa di importante. Poi Federico Fellini, indubbiamente, Pascoli, indubbiamente. E io ci metterei dentro anche Dante Alighieri, perché comunque la tomba era Ravenna, quindi era nostra. Al di là delle interpretazioni di Benigni, meraviglioso. Meraviglioso. E poi un quinto che forse qualcuno non conosce o conosce poco, Secondo Casadei. Secondo Casadei. Chi è Secondo Casadei? È il parente più prossimo di Raul Casadei. Il parente, sì, più prossimo. È quello che ha creato il liscio, il Secondo Casadei, possiamo dire questo. Ma la musica popolare italiana. Pensa, guarda, uno spaccato di vita così, alla volta, la servo sul piatto. Non abbiamo mai parlato di liscio, è la prima volta con te, è la prima volta A luglio c'è il Ravenna Festival, sì. Che lo fanno da 35 anni, 40 anni. tra l'altro c'è una bellissima scaletta, ho letto, sono belli ospiti, Bart Baccarat, eccetera, eccetera. Però... Beh, quest'anno fanno qualcosa anche dedicato al secondo Casadei, perché un festival come quello di Ravenna, che ha sempre predilige più il jazz o sonorità americane di un certo livello, comunque vogliono dar spazio anche a questa arte che secondo Casadei comunque ha creato un qualcosa di artistico che negli anni insomma è rimasto, insomma Romagna Mia è una di quelle canzoni popolari che sono rimaste nei secoli, quindi viva il Ravenna Festival e le persone che non lasciano indietro niente. Ecco, perfetto, così abbiamo saputo chi era secondo Casadei. Secondo Casadei. Esattamente. È arrivato anche il nostro direttore artistico, Alberto Prisco, che salutiamo. Ciao, carissimo, ben trovato. Vi ricordo che dalle 22.30 in poi potete sentire la sua musica rock. Ti viene a salutare, Max. Eccolo là. Tutto bene. Ok, benissimo. Max, cosa facciamo? Sentiamo un altro pezzo live, certo, o sentiamo un pezzo da disco? No, io direi di sentire un pezzo dal disco. Dal disco. Cosa hai scelto, Max? Ma io direi... Che... Ah, una cosa, prima quelle... Tu hai fatto un pezzo che poi nel disco era in Unplugged. Guarda... Scusami, non... sì, quello del missile laureato. Sei laureato in era in Unplugged. Io ero portato a scegliere quello. Poi ho deciso sul singolo. Per me è un singolo. Sì. Io ed Alberto Pisuoli qui presente. Sì. Beh, mi piaceva molto dove fosse un Unplugged. Bella, bella. Era molto bella, molto significativa. Infatti, Cauto Acuto era concepito appunto, tutto in quello stile lì. Esattamente, su quel concetto là, di quell'album là. Sì, però adesso. Infatti, adesso sentiamo una canzone. Se vogliamo, è Unplugged anche quella, perché è minima: c'è il pianoforte, due violoncelli. Proprio e c'è una voce di una donna straordinaria che poi dopo, se volete, sì, dopo citiamo i musicisti. Ne parlo. Tanto che adesso abbiamo parlato di Ravenna Festival, sì, abbiamo parlato del Passatore, e allora facciamo sentire È Ravenna, che credo che sia un mio... Un tuo hit. È una cosa che mi riempie d'orgoglio averla scritta, non pensavo di essere così bravo. E la vocalista... Sto scherzando, però mi piace molto. E la vocalista che è con te? Si chiama Teura Cenci, romana, lavorato con Mario Biondi, con tanti personaggi, che lei la voce è grandissima, è una maestra di canto, è molto brava, quindi lo sentirete. Ok, magari ci sta ascoltando, la salutiamo. Certo, ciao Teura. Ciao Teura, ci vediamo il 29 di giugno. Ecco, noi intanto ce l'ascoltiamo. Storia, l'ultimo soggiorno del sommo poeta, è un inferno dolce come esilio, dove ancora Dante dorme nel suo idillio, e Ravenna snobbe alto locata. E Ravenna, reggia di Romagna. E Ravenna, dove sono nato, in quel pomeriggio di un giorno da cani. Eterno. Era venna di Santa Polinare, terra del ero romano d'Occidente, dove ancora puoi vedere Garibaldi e Padre Bassi in fuga alle mandriole. E Ravenna, la storia ancora si ripete, ancora sempre capitale nel 2019. E Ravenna, la mia confessione, la mano di Virgilio si posa sul mio cuore. E Ravenna, classe ballerina, e Ravenna, cammino della mia vita. Le Ravenna, bella tabacchera, la storia innamorata, la casa nostra storia. Lo sguardo all'infinito, in un momento eterno. E la venna di Santa Apollinare, terra del passato cortese, impero romano d'Occidente, che ancora puoi vedere. Garibaldi e Padre Bassi, in fuga le mandriole. Anzi, ai racconti, quella storia già lontana, vecchia quanto i da polenta, ha un sapore di dolcetti del Molise, nell'esilio provinciale che cancella ogni rancore. Così ancora qui a Blu Radio Veneto con Agostino Spolaora e con Maurizio Calzavara, ma soprattutto con questo uomo allegro, spensierato, appassionato e, e ne parla nel suo CD in, assolutamente e volutamente in terza persona, per scindere il Max sognatore, scrittore e musicista dal Massimiliano più concreto e critico. Esatto. Quindi, ma poi io ho letto tutto quello che hai scritto qua. Grande. Mi sono piaciute diverse frasi, ce n'è una che mi piace tantissimo e te la voglio leggere, mi volevo collegare anche prima con quanto stavamo parlando, ma insomma poi abbiamo cambiato discorso. Allora dice: le mie fonti di ispirazione sono sempre in agguato. Sì, state attenti che potreste cadere dentro una canzone. Bellissima questa frase, veramente. Poi c'è il prologo che dice: a tutti quelli che non sprecano nemmeno un giorno qualunque dietro l'abitudine. Esatto, sì, l'abitudine ammazza, devo dire, forse per qualcuno non c'è scampo. Ma tu non sei abituato. Però io credo che se tu abbia voglia di cambiare il quotidiano, l'abitudine, ogni giorno puoi fare, puoi fare colazione diversamente, la puoi fare sul terrazzo, fuori, farti la doccia, uscire senza farti la doccia, parlare con il postino, non parlargli, cioè cambiare i fattori, non fare sempre le stesse cose, per convenienza, certo, o per comodità. E poi c'è, scusa Maurizio, e poi c'è questo, questa citazione che fai alla tua etichetta. Sì. E sono parole, secondo me, bellissime, perché valorizzi veramente quello che loro cercano in te. sì, in quello che fai. Cioè loro, lui dice, Max dice, non è un caso che io collabori con le Radici Music Records di Aldo Coppola Neri, perché lui e sua moglie Stefania sono attenti al contenuto culturale della musica e non solo al suo aspetto commerciale. Esatto, esatto. Su questo argomento si parlava proprio con Francesco Caprara, il batterista che collabora, uno dei batteristi, perché ne ho anche un altro. Qualche altro? Sì, sì, a volte, perché Caprara è molto impegnato. Si parlava proprio del fatto che in definitiva la musica nella notte dei tempi non è nata per essere commercializzata. La musica non si compra, l'arte non si compra e non si vende. L'arte va valorizzata, bisogna saperla ascoltare. Chiaro che la musica è anche un prodotto che si vende e quindi spesso e volentieri diciamo che ci sono prodotti più fruibili al pubblico e quindi vendibili, che guadagnano di più di prodotti culturalmente più profondi e preparati contemporanei. Non lo so da cosa dipende questo, ma io so solo che Guccini quando fa un concerto fa 2000 persone, 2005, 3000 al massimo. Vasco Rossi ne fa 600.000, 800.000, Ligabue ne fa 150.000. Chiaro, ma senza nulla togliere a Vasco e Ligabue, per carità, però diciamo che si vede la netta differenza dei numeri, insomma, questa è la realtà dei fatti, insomma. Cioè, ma tieni presente una cosa, però, non per essere in contro quello che stai dicendo tu, però Vasco Rossi magari ti fa 3-4 concerti all'anno. Sì, questo è vero. Guccini te ne fa 30-40, cioè voglio dire, adesso forse no, una volta, faccio per dire. Sì, quindi sì, i numeri poi rientrano. È chiaro che se io abito a Padova e Vasco, e mi piace Vasco Rossi, fa un concerto solo in Alta Italia, è chiaro che me ne vado lì. Se invece Guccini, faccio un'ipotesi sempre, ne fa uno a Padova, uno a Belluno, uno a Rovigo, c'è la possibilità di scegliermi. Chiaro, chiaro, chiaro. No, no, ma con tutto rispetto per Ligabue, sì, per Vasco, ognuno ha il proprio pubblico, il proprio talento, sono tutti artisti di livello, insomma, non è. Diciamo che Guccini, De André, insomma, forse meritavano un ascolto in più al tempo, che e sono stati scoperti un po' dopo, ecco, certo, diciamo questo. Insomma. Che De André aveva un po' paura a fare i concerti, poi si è un po' mollato, era timido, aveva paura dei concerti. Molto riservato. Aveva paura di mostrarsi al pubblico. Ma parlavano già tanto esplicitamente, sì, le sue canzoni, tanti begli argomenti originali. Ecco, io ricerco quello, l'originalità, l'argomento mi interessa, non tanto la canzone con strofa e ritornello che rimanga in testa, sono quello. Sì. Il Pulcino Pio per me è un motivo, cioè potrei impiccarmi adesso. Diciamo. Io voglio sapere il nome e cognome di chi ha comprato il Pulcino Pio, lo voglio sapere. Ma sono tanti. Vado a casa loro uno sono per tanti. Uno. No. Non so se sia arrivato primo, ma so che era secondo in classifica. Sì, ma purtroppo succede anche questo, ma succedeva anche una volta, caro Max, non è mica una novità di adesso. Probabilmente sì. Però insomma c'è un limite, voglio dire. Probabilmente negli anni che Natalino Otto insegnava a tutti come si faceva lo swing, e ovviamente c'era un Pulcino Pio anche quei tempi lì. Certamente. A proposito di questo, ritorniamo al discorso di Ravenna, quel pezzo che abbiamo sentito prima. Sì. Perché ci sono degli ottimi musicisti. Parliamo di questa ragazza con una voce bellissima. Teura Cenci. Ma niente, è una ragazza che ci siamo conosciuti perché lei ha un locale, un live club a Ostia Antica, e vicino a Roma. Siamo diventati amici col marito, insomma, adesso aspetta un bambino, quindi insomma, belle notizie. E niente, abbiamo fatto dei concerti lì e siamo diventati amici e gli ho proposto di partecipare a questo disco. Lei subito ha accettato e la devo ringraziare perché comunque gli ha dato una marcia in più, anche se la mia etichetta preferiva quella solista. Ah, ho capito. Più intimista la reputava, però insomma io sono contento di aver proposto Teura. E poi in Ravenna c'è anche Valdimiro Buzzi, che è un grandissimo musicista. Eh sì, proprio grande, perché è un po' l'istrumentista. E che ci segue da parecchio tempo adesso. Sì, ci conosciamo già ormai da 3 anni, insomma, buoni. Io vivo a Roma da 6 e da 3 anni con Valdimiro. Lui suona mandolino, mandola, sì, mandoloncello, il pianoforte, il basso, la batteria, suona tutto. Cioè. È proprio a 360 gradi, ha lavorato con grandissimi. Lui, se fosse che mi direbbe non dirlo, perché è anche molto umile, cioè nel senso, lui basta che si suona, non è che devo dire ho suonato con Ennio Morricone o Nicola Piovani, però la verità è così, è che io ho incontrato Nicola Piovani all'auditorium, mi sono presentato perché è un artista che a me piace, Nicola Piovani, e tra l'altro è distribuito Egea, e il mio disco precedente era distribuito Egea. E no, niente, gli ho detto di Valdimiro, se l'hai ricordato, ho detto portagli i miei saluti, un grande artista, eccetera, eccetera. Infatti Valdimiro è veramente un professionista della musica. Poi c'è, dillo tu, c'è l'altro, no? Francesco, abbiamo già citato Francesco Caprara. No, beh, Caprara invece ha fatto secondo a Sanremo con la sua band La Scelta nel 2008. Ha suonato con Ron, ha fatto dei concerti con lui in tutta Italia. E in questo momento è prodotto da Ron, perché la sua band è uscito il singolo, uscirà il disco a novembre. Quindi insomma sono grandi artisti. Ma sono amici prima. Ma sai, è bellissimo perché noi ci troviamo a volte con Valdimiro, magari no perché è molto, molto più impegnato in queste cose, però con Francesco soprattutto nel suo studio di Roma, e buttiamo giù delle idee a volte, poi ci beviamo un caffè e si parla di come vorremmo fare certe cose. E Caprara è un ragazzo come me. Cioè, si emoziona quando sente una batteria suonata bene o un violoncello, cioè, perché, capito? Questa è la grande passione della musica. Vedi, tu fai i dischi come si facevano una volta. Sì. Cioè, con quell'idea là. Sì. Di fare un disco, prima innanzitutto di fare un disco, cioè stare assieme, gestire le emozioni assieme, creare assieme. Quella è l'idea di Max Arduini, cari ascoltatori. Adesso sta roba qua si è persa. Perché secondo te, Max? Perché è il sistema che è cambiato. È il sistema che tu prendi comprime. Se tu prendi l'italiano è individualista. Non si fa squadra, non siamo più band. Esattamente. Ci fate caso che le band si sciolgono e il cantante diventa solista? Sì. E che progetto? Ma io francamente lo trovo una presa in giro per il pubblico questo. Ma perché se si scioglie una band devi sparire. È chiuso un capitolo, basta. Ma se il cantante solista se ne va e la band, ma lui non è ricordato più come cantante, viene lentamente ma progressivamente lasciato da parte, nonostante tutto. Questo è un grave errore anche della discografia, perché praticamente valorizzano il frontman e non valorizzano i musicisti che gli stanno dietro. Infatti tutti conoscono Negramaro e sanno chi è San Giorgi, che certo, è il cantante, ma non sa, nessuno sa i nomi degli altri. È chiaro. E questo è un po', magari non lo fanno apposta, magari è voluto, non lo so, però io trovo che fare musica insieme bisogna condividere anche queste cose, insomma, è così, insomma, poi sono punti di vista, come dire, però sì, io sono per il gruppo, per la squadra. Certo. E come la prossima canzone che vi farò sentire. Infatti te lo stavo per dire, il gruppo stasera sei tu. No, guarda, sembra fatto apposta, ma stiamo parlando e sviscerando argomenti che mi portano a presentare le mie cose, e ho scritto questa canzone pensando alle formiche, rosse soprattutto, che sono le più cattive e le più pericolose. Però la formica rossa spara dell'acido dalla fronte e quindi uccide la sua preda così, ma una formica rossa da sola contro una cavalletta non ha speranze, vince la cavalletta. E insomma, di fatto però, se le formiche sono molto laboriose, collaborano, fanno squadra e le cavallette le distruggono. Questo è un po' il fatto. E cosa che invece non vedo in questa vita, vedo persone che tirano un po' come i due somari con la corda, capito? Che per mangiare due pezzi di carota tirano la corda e si strozzano, no? Certo. È così. E invece a me piacerebbe vedere un mondo che non si preoccupa solo di me che non ho il lavoro, ma che non ce l'ha lui. Allora, se tutti riusciamo a fare questo, io penso che nei prossimi 20 anni abbiamo cose molto belle da fare. Però è utopia, quindi insomma è una fantasia che ho io. Certo. Allora, questa ballata della formica rossa. Ziggy Ziggy, Ziggy Ziggy, Ziggy Ziggy, Ziggy Ziggy, Ziggy Ziggy, Ziggy Ziggy, Ziggy Ziggy, Ziggy Ziggy. L'esta se ne va, quell'attimo più fiero, striscia la formica nell'abitro, le tiro. L'esta poi ritorna, la colpa che è più forte, ben calcificata in forma di ribelle. Ziggy Ziggy, Ziggy Ziggy, Ziggy Ziggy, Ziggy Ziggy. L'esta è la ballata eterna del coltello, il prurito aperto della ferita interna. Non ci sono messo d'accordo con la pelle, le formiche rosse mi attaccano le danze. Ziggy Ziggy, Ziggy Ziggy, Ziggy Ziggy, Ziggy Ziggy. Che prurito mi dà il complotto e l'aridità. Cosa c'è che non va? È la ritmica. Resta cattiva, aria conforme e gratuita nella bacinella dell'abitura fresca. Comodo tessuto di male appartenenza. Questa è la ballata della formica rossa. Zighi zighi, zighi zighi. Questa è la ballata della formica rossa. Zighi zighi, zighi zighi. Questa è la ballata della formica rossa. Forse non per tutti la fine programmata. Sono più coscienti i balli in riverenza. Resta la riscossa della formica rossa. Figlia della scelta che balla senza scossa. Zighi zighi, zighi zighi. Sighi sighi, sighi sighi. Che prurito mi dà il complotto e l'aridità. Cosa c'è che non va? È la ritmica. Forse qualcheduno si chiede cosa voglio, cosa vorrà dire zighi color rosso. Non ci sono fatti né doppie percorrenze. Questa è una parola, distinto senza niente. Un intercalare di doppio senso e basta. Metti fantasia su quella prode faccia. Sighi sighi, sighi sighi. Questa è la ballata della formica rossa. Sighi sighi, sighi sighi. Questa è la ballata della formica rossa. Quanta grinta. Devo dire che anche il pezzo nel CD è molto radiofonico, anche è stato, sì, sì, è stato arrangiato in particolare. No? Decisamente radiofonico. L'album del 1992, cioè cominciamo, facciamo come i gamberi, torniamo indietro. Bello quella. Aveva un titolo molto particolare, Ambiguità. Ambiguità notturna, ma non è un album, eh? Cioè è una, è un audiocassetta. Come fosse un album. Ero un ragazzino, quindi una volta si usava. Mi registravo le mie cose, poi lavoravo con sono ancora amico tra l'altro con Agostino Bertozzi di Rimini. E lui mi metteva delle chitarre sopra, no, io ero le prime armi così, insomma, però Ambiguità notturna ha vinto dei premi. Sì, è arrivata anche a un passo da Sanremo, poi è chiaro che ma però insomma lo spirito del gogliardicamente mi sono divertito in quegli anni sognando di diventare un cantante, un musicista. E lo spirito del 1992 è lo stesso del 2013? A volte sì, a volte spesso no. Spesso sì e a volte no, perché io faccio un errore molto molto brutto. Mi concentro troppo a volte su quello che mi naviga attorno. Ah. Io lo devo fare, ma mi devo anche preservare. Siccome io non ho pelle, vivo, ho il nervo sempre scoperto, quindi devo stare attento. Sei verace. Però in questo momento mi beccate bene, che invece è un periodo creativo e sto bene. Ma cos'è il Lambrusco che ti fa bene? No, Lambrusco, ma anche il Cammino dei Castelli Romani non è male. Certo. Poi un po' di porchetta di Alice, il gioco è fatto. È fatto, via. Fermiamoci un momento dell'album dell'anno scorso, che a me interessa molto. Cauto e Acuto. Da Ravenna a Roma, via Rimini. Quello è bello, da Ravenna a Roma, via Rimini. Eh sì, perché io sono nato a Ravenna. Però ho abitato sempre a Rimini, mio babbo di lì, e adesso sono a Roma, quindi per arrivare a Roma ho dovuto fare tutto questo trafilo praticamente. Ma cauto e acuto? Cauto e acuto, guarda, adesso io, uno psicologo mi ha fatto una recensione che l'ho pubblicata anche su Facebook, bellissima, non te la so ripetere perché è una cosa greca, dei greci, quindi non l'ho imparata a memoria, però è molto bella, andatevela a leggere. Comunque cauto e acuto per me è sempre stato questo, la spiegazione. Il passo cauto, il linguaggio acuto, con cautela arrivare al linguaggio. E quindi io infatti non troverete canzoni mie che parlano di nomi, cognomi male. Alcune sono di denuncia, ma sono sempre sulla chiave poetica, perché non mi piace né farmi nemici e soprattutto non sono nessuno per giudicare, quindi. Cauto sì, però qualche volta acceleri. Qualche volta c'è deraglio, infatti. Non deragli. No, devo stare attento, perché infatti no. Quello è un buon consiglio che mi do, insomma, cauto e acuto e vado lontano. Secondo me è interessante questo che hai detto. Cauto, vado lontano, deraglio, ma deragli sì, ma raramente deragli. Stai sempre sulla strada ferrata, continui. Come un uovo che continua a trovare, a cercare, a scoprire. Non posso dirti che sei il Woody Guthrie italiano, quello no. Però Woody Guthrie aveva quell'idea di continuare, lui era molto più politico di te, siamo d'accordo. Sì, chiaro, chiaro. Molto più politico. Beh, come Guccini, Lolli, loro sono più politici, senz'altro. Sì, sì. No, a me non piace sprecare il mio talento per la politica. Continuava sempre al di là di tutto, continuava sempre. E tu continui sempre al di là di tutto, perché fai musica. Ma io continuo sempre, anche perché non potrei fare altrimenti. Io non ho mai conosciuto pianure, eh. È sempre in salita la mia strada. Ecco, vedi. Cioè, qualche volta forse sì, sai quando... Cioè, la salita è un po' meno affannosa, arrivi un pochettino, dici adesso ci sarà la discesa, no, e vroom, riparte, come le montagne russe, vroom, è così, anche perché, no, adesso non voglio fare... Adesso siamo, però, arriviamo al sodo. Al sodo, dai. Quello che il sodo, quello il sodo, niente, non mi posso lamentare, io non sono mai sceso compromessi, quindi ho sempre lavorato così, per conto mio, con le persone che mi vogliono bene, come Aldo Coppolaneri, Caprare, Valdimiro, eccetera. E quindi non mi posso lamentare. È chiaro che la mia strada è sempre in salita, perché essendo io autentico, fatico più degli altri. Giusto. Se ti vendi, ti sai vendere meglio, forse lì per lì il peso ti viene spostato, però insomma... Lì per lì poi, lì però... Però il conti li farai prima. Dopo, li fai dopo i conti. Quindi penso di essere soddisfatto... Ho avuto buone soddisfazioni anche di stima con Pergolani, Marengo, certo. Adesso voi, ma tanti altri prima, in precedenza. Quindi posso solo dire una cosa, continuerò a lavorare sodo e a carpire questa ispirazione sempre in agguato. Ecco bene, hai detto una cosa giusta, perché che hai citato prima Agostino. Sei arrivato al quinto disco, che è una raccolta, non è una raccolta, è un momento di stop, adesso si riparte. Ma non è vero, perché hai già pronto un sacco di cose là, sì, per il sesto album. Molte cose, sì. Molte cose. Che diversità avranno le molte cose già pronte rispetto al primo a Max Arduini, al primo percorso musicale Max Arduini? Ma guarda, posso dirti che questo proprio è tangibile. Tutto quello che io in questi 5 anni ho letto, vissuto, fatto, si è trasformato in sillaba, in frase, in aforismo, in... similitudini, eccetera. Devo dire che non mi sono spostato di molto come concetto di canzone, cioè le mie canzoni non saranno mai né d'amore e né con la rima baciata, cuore, batti cuore, non so, adesso non mi vengo perché sì. Ma pensa, non riesco neanche a farle quelle rime perché le ho cancellate dalla mia parte del tuo non DNA. Fanno parte del mio DNA. Quindi il prossimo disco sarà uno un pochettino più avanti musicalmente rispetto ai precedenti e indubbiamente sarà molto più avanti nella parola, nel concetto di scrittura, sì. Bene. Ci sono varie argomentazioni, tratto il genocidio degli indiani, mi interessava, lo volevo fare, ma poi ho scritto tante cose che sono nel cassetto, sto vagliando se saranno all'altezza di essere messi in un CD e sarà molto meno generoso. Perché sto giro sarà un CD di 9 brani. Questa volta risparmi. No, perché voglio con questo CD voglio sintetizzare un attimino quello che sto facendo, lo voglio fare con poche canzoni, sennò più intense, magari. Disperdi troppo, sì. Doveva essere un disco che doveva accomunare tante tue esperienze e 19 pezzi, mi pare, del disco precedente, di questo disco che abbiamo citato, doveva essere così. Al di là dell'etichetta, al di là 19 sono troppi, facciamo 17 o 15. Al di là dello scherzo dei numeri, sì. Doveva essere, se un artista vuole, pensa di arrivare a 19 pezzi, devono essere 19 pezzi. Cosa dici? Sono d'accordo, infatti l'abbiamo fatto. Questo è il bello di lavorare con le piccole etichette. Appunto, è proprio quello il bello. Sei libero di fare, anche perché Aldo a me non mi dirà mai, non mi piace quella canzone, mi può dare un consiglio dicendo magari non farla. Aldo, che consiglio ti ha dato per i 19 pezzi? No, su questo ti giuro... Mi ha dato piena carta bianca. Lui mi ha detto scegli quelle che vuoi mettere e le metti, perché tanto mi piacciono tutte, ha detto. Si fida di me, quindi c'è un buon rapporto. A breve poi usciranno. Ecco, questa è una news, è una piccola news. Praticamente stiamo rimettendo fuori tutti i primi album introvabili. Quelli delle cassette. Esatto. No, quelle è impossibile. Non hai un nastro da qualche parte. Niente lì, da fare. No, quelle lì non si può fare. Invece io dico vinile, né comune né volgare, l'arte le chiede l'ottenere, che sono i 3 album precedenti a Cauto Acuto, però erano autoprodotti, quindi non li trovi nei negozi, non li trovi, cioè o li compravi da me o non li trovi nei concerti tuoi. Beh, questa volta con la Radici vogliamo metterli fuori su iTunes, sui vari portali tematici, perché vorremmo che, insomma, così proporli, chi vuole andare a scavare nelle mie radici può farlo. Questo è positivo, secondo me. Molto positivo, insomma, credo di sì. Ci canti un'altra canzone adesso, che poi torniamo in studio e facciamo ascoltare qualcosa dal disco e poi ci salutiamo con una canzone dal vivo. Allora, io farei La Rivalona, che è una canzone, parlando del Passator Cortese, era l'amante del Passator Cortese, era una delle amanti del Passator Cortese. Una delle tante amanti. Che faceva un lavoro, insomma, antico, insomma. Ecco, esatto. Nobiliare, insomma. Nobiliare. E quindi La Rivalona. Al Poncellino c'era una tanghera, mi pare un manifesto popolare, per tutti quanti notte Rivalona, all'osteria delle donne. Marianna è il vero nome, fiera del proprio soprannome e delle subdole abitudini di sesso e di denari. Donna di facili costumi, mercificava il proprio corpo sulle rive di quell'amone che la vide far l'amore. Rivalona amava come poche, amava come tutte il passatore, lei che gli doveva il soprannome sulle rive dell'amore. Sposata come un bracciante nella pieve, anche so con il vizio di rubare, e lo tradiva senza indugiare, troppo stolto per capire. Giorno come tanti, denuncia il marito soccornuto ai gendarmi della pieve di Cesato, al cui lei donava il fiore. Così che la sua casa desolata divenne per tutti delle donne luogo di incontri di appetibili ristori per passanti vogliosi. Certo, per non darsi mai per vinta e di nascosto far l'amore sul lamone con il famoso passatore. E io, Marianna Marangoni, detta da tutti sui rivali Rivalona del Lamone, fu catturata per cantare dei gendarmi senza specifica imputazione. A Bagnacavallo c'era un governatore che con denari, con premesse di scarcerazione, avrebbe indotto quella Rivalona alla confessione. Nel marzo del 1850 tale Marangoni Marianna, amica del passatore, va manifestando la sua noia di starsene in carcere. Non avendo rilevato alcuna informazione riguardante il passatore, viene prosciolta. Eh già. Ha! L'amor! Ironica. Mi sei un po' scordata la chitarra, vai, è uguale. È il bello della diretta. Si dice così, giusto? Si è scordata. Allora, senti, ma io volevo chiederti velocemente, quando tu sei a casa, cosa sì. ascolti? Quali sono i tre dischi che ti piacciono? Una bella domanda. Ascolto Ray Charles. Wow! Io ascolto Ray Charles. Meno male. Ultimamente mi sono affogato di canzoni di Ray Charles, me lo metto lì e ho 4 album, e quindi ascolto quello. E poi mi sono ascoltato l'ultima Tool di Guccini. L'ultimo disco che ha fatto. L'ultimo disco. E poi c'ho ancora Balene, Profeti, Marinai di Caposera. Questo è il mio ultimo. Devo dire la verità, la musica attuale che va nelle radio, eccetera, l'ascolto poco. L'ascolto in macchina quando ho la radio accesa. Purtroppo sono all'antica, a me piacciono altre cose. Però, insomma, questo è un punto di vista, come dire, va bene così. Insomma, no? ognuno, come dicevamo prima, ognuno sceglie la musica che più gli fa comodo, che più lo appartiene, no? Questa ti piace? forte, forte. È mitica questa. Perché Max Ray Charles? Ray Charles è... Perché adesso Ray Charles? Perché Ray Charles è la dimostrazione che Dio esiste. Se non fosse nato Ray Charles, Gesù non c'era Dio, non esisteva. È la dimostrazione reale, tangibile. Questo era cieco, suonava il pianoforte come un dio, sì, aveva una voce straordinaria. Poi chiaro, il genere musicale deve piacerti, ok, perché passa dal gospel, faceva country, sì, poi faceva blues, rhythm and blues, ok, quello ti deve piacere. Ma a me piaceva proprio lui, era magico, capito? Quindi, sì, poi mi fa proprio viaggiare, quando lo alzo a tutto volume c'è queste estensioni vocali che sono impossibili. È un mito, Valenza. È un mito, sì, finalmente un uno che ha i miei gusti. Allora, ti faccio riposare. A me piaceva anche Frank Black, non so se lo conosci. No, questo no. Frank Black. Black è un cantante folk americano che, secondo mio parere, se non fosse nato Bob Dylan, ci sarebbe stato lui. Lo so, ma è nato Bob Dylan. Se volete andarvelo a vedere su YouTube, Frank Black, e vedete con la chitarra cosa combina. C'è una voce molto particolare. Stasera me lo vado a Frank a Black. Bene, grazie del suggerimento. Prego. Facciamo ascoltare la canzone che chiude il disco e poi torniamo in studio. Va bene, allora facciamo Le storie che non racconto, perché è una canzone che ho rivalutato. La stiamo facendo con la band e viene molto bene. Da che album era? Era nell'album L'arte del chiedere e dell'ottenere, e adesso l'abbiamo messo in questo album e finalmente la possiamo proporre sul palco. Benissimo. Ascoltiamo. Però se ad ogni passo tra le dita avessi avuto fame di sapere dove vanno tutti quei pensieri che non ho ascoltato, quelle storie che non racconto perché non c'è spazio in un metro quadro, è l'orgoglio che mi frantuma e non puoi fermarlo. Spezzano le ali gambe come steli, ma non si ferma un treno, i dispiaceri e le speranze che non hanno un prezzo. Troppo tempo ancora a fare il cambio di fiducia tra un amico e il cielo, ma ritornano le soglie di un inverno rigido da far entrare dentro questo petto. Tra le dita avessi avuto lame, forse in qualche giorno avrei lasciato a qualcheduno un conto da pagare, ma non vanno avanti i passi di chi trama contro un cuore artificiale. Non si ferma un uomo mai, non si ferma un uomo mai, se ad ogni colpo a queste tempie avessero bucato il cervello sfitto in quei momenti che vorresti stare a galleggiare, in queste storie che non racconto perché fanno parte delle mie parole, tanto è qui che torno, tanto è qui che torno. il Veneto come non l'hai mai sentito. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Allora, Maurizio, qualche considerazione su questa canzone? Su questo pezzo, un pezzo costruito al piano, perché Max i pezzi non li costruisce, stasera era con la chitarra, chiaro, chiaro. Però al piano è un altro suo modo di comporre. Beh, l'ho studiato di più, quindi di più. Conosco le varie scale, le varie possibilità di cercare melodie. Ma cosa entra di più in Max, la chitarra o il piano, per comporre, per creare? Il pianoforte, è indubbiamente il pianoforte. Poi ho scritto canzoni anche con la chitarra, però sono molto più... Infatti certe canzoni mie fatte col piano mi vengono difficili alla chitarra, perché hanno posizioni un po' particolari e mi hanno portato il cappuccino. Sì, sì. Il nostro direttore artistico... Giustamente, devi tirarti su. Sì, sì. Su, dai, ho sudato mille su. Camicie qui. No, sì. Il piano, quindi a me interessa un'altra cosa da chiederti. La band, con la band, che modo suonate? Con quale vigore musicale? Ci sono anche chitarre elettriche? Sì, sì, abbiamo un chitarrista, Stefano Sinisi, poi abbiamo il bassista Roberto Talone, poi abbiamo un altro batterista che si chiama Andrea Moscuso, poi abbiamo Bruno Talone che suona flicorno, tromba, insomma mi avvalgo anche di varie collaborazioni. Ad esempio prossimamente ci sarà Alessio Iassetta al basso, che mi sostituirà Talone perché ha preso degli impegni, quindi no, poi c'è famiglia eccetera. Beh, insomma certo, ci sono anche queste cose da fare i conti, e quindi no, io sono circondato da persone ottime e... Ci divertiamo, e suonare a volte è anche la scusa a volte per fare una bella mangiata tutti insieme. Quello è importante. E basta, ci divertiamo, guai se non ci divertiamo, perché adesso quest'estate abbiamo dei live sulla spiaggia di Ostia, di bello, Capocotta. Bello, sì. Bello, bello. Già il 29 abbiamo un concerto, poi ho altre date che non sto a rivelare perché le sto sistemando, mettendo a punto. E il tuo disco dove si può trovare? Il disco al momento non si trova in distribuzione per motivi tecnici, si dice così, no? Sì, sì, motivi tecnici. E quindi questo CD si può trovare a breve su iTunes, tranquillamente si compra. Al momento si contatta la casa discografica che provvede a farvelo avere, la Radici Music Record, ma se andate sul mio Facebook... c'è tutto il link per contattare. Anche i tuoi concerti, però, se uno lo vuole. Sì, se andate su Facebook mi chiedete l'amicizia, non ve la do, però. non c'hai il banchetto anche te ai concerti con i tuoi CD? Di solito si fa così. Lo sai, cioè, lascialo bere. Guarda. dimmi. Mi state facendo mettere in imbarazzo. Mi dà fastidio vendere i CD, lo dico proprio col cuore. È brutto dirlo, ma. Okay. Però sì, insomma, li tengo. No, sì. Chi li vuole li vendo. Però mettere proprio il banchetto mi sembra. Si usava così, e si usa qualche volta. Si usa, vabbè, ma intanto voglio dire, secondo me, certo. Se fai tanti live, e io di solito ne faccio tanti, parecchi. E suoni bene, la gente è contenta di quello che tu hai fatto, ti vengono a dire ce l'hai un tuo CD e tu glielo dai. Certo, certo, certo. Quindi, però mi imbarazza un po' a dire lo vuoi comprare il mio CD? No, non dicevo di quello. Dicevo che capita che sono là a disposizione, se uno li vuole chiede. Insomma. Esatto, esatto. Va bene, Max, è arrivato il momento di salutarci, perché tra pochissimo andrà in onda Alberto Prisco con la sua musica rock e la sua classifica, che è un programma assolutamente da seguire, perché c'è sempre la novità discografica straordinaria. Lui cerca veramente, come dire, come un ago nel pagliaio, no? Cerca sempre le cose più belle. Ecco, vedi? Ah, ecco, questo, questo è bravissimo, bellissimo questo disco qua, si chiamano Monti Moria. Insomma, è un trio straordinario, ti dico. Bravi. Bravissimi, sono bravissimi. Tra l'altro li ho postati anche nella mia pagina di Facebook in questi giorni. Ce n'è parecchi di gente brava. Ce ne sono parecchi, sì. Adesso mi pare che Max faccia sentire dal disco, caro Agostino, La Settima Casa. Però ne devi parlare un secondo, perché è un pezzo importante, La Settima Casa. 30 secondi però. 30 secondi. La settima casa l'ho scritta al concorso Musica Libera in Emilia-Romagna, della regione Emilia-Romagna. Io l'ho scritta così. Così e poi girando per internet ho visto che avevo vinto il concorso, non me l'avevano ancora comunicato, e il giorno dopo, la mattina, poi mi hanno telefonato dicendo sei il vincitore della musica libera. Poi ho preso il premio May, sono stato invitato al Meico. No, niente, la settima casa è, diciamo, la mia canzone più popolare, perché chi mi segue me la chiede spesso, quella lì. E quindi è una canzone che mi ha dato molte soddisfazioni, è arrivata alle orecchie del pubblico. Ecco. È importante, fondamentale. È importante, sì. Bene, allora sono le 22:28, noi ci salutiamo qui, ringraziamo Max di essere venuto qui questa sera. Grazie a voi. Ti aspettiamo per il disco nuovo. Il disco nuovo, che allora mi aspetterete parecchio, perché e quindi sarà il 2014, quindi... Noi non abbiamo fretta. Assolutamente, oh, magari capito per Padova, mi fermo a farvi un saluto. Ah, certo. Quello se no. Quando vuoi, abbiamo anche noi qui qualcosa di vicino che si può degustare, quindi si può andare a bere o mangiare. Io vi saluto. Vi ringrazio e saluto tutti i vostri ascoltatori. Padova, che è bellissima, preservatela, cercate di tenerla da conto, perché è una città meravigliosa. Bene, io per quanto mi riguarda vi do l'appuntamento a lunedì, se non sbaglio. Sì, no, lunedì ci sarà un cantautore americano. Una cantautrice? No, è un cantautore. Cantautore, è Terry Lehey. Ah, giusto. Io pensavo terra... No, Terry Lehey, un cantautore americano. Va bene, allora, e poi invece ci sarò giovedì della settimana prossima con Irene Ghiotto, che è la reduce dal Festival di Sanremo che accennavi prima, sì, insomma, che... è la cantante emergente che è andata al Festival di Sanremo quest'anno. E invece giovedì questo, fra due giorni, non ci saremo. È festa Sant'Antonio. Domani ci sono gli EQ, prima c'è un'intervista con Gilles Facchinetti. Gilles Facchinelli. E poi ci sono gli Echo, che è un gruppo molto interessante, che farà proprio una musica molto particolare da sentire, come tutte le musiche di Rock Away o Blue Time Live, che è la stessa cosa. Bene, non cambiate canale, perché adesso c'è Alberto Prisco, però prima ci ascoltiamo l'ultima canzone cantata da Max Arduini in quest'album, che ricordo si chiama Vivo Impraticantato, giusto? Giusto. E la canzone è La Settima Casa. Ciao. Ciao Max. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Abituato te sta in su a guardare la casa della luna che mi ospitava sempre quando ero un po' giù. Era la seconda casa degli specchi, il riflesso di occhi che nel buio non vedo più. Tra divani impolverati e vetri appannati, e con il gomito aprivo piccoli spiragli per andare a trovare la luna riflessa sui prati. Era la quarta casa dei dispetti, quelli chiusi nelle mura e non li vedi. Casa dei curiosi, le rotaie del treno, e non mi sembra vero che tutto quello che succede non importa, purché succeda nella propria e che più di tanto non ci coinvolga. Nella sesta casa delle ombre, triste.